diciamo la verità. Io scandalizzavo quando mi muovevo. Oggi me lo dici tu. Chi si scandalizza più? Tutte marionette con cuore di stracci, senza amore e pietà. E allora guardati, guardati, guardati allo specchio. Levati, levati, saprai chi veramente sei tu, così potrai divertirti di più. Venite sui miei passi, sulla vecchia strada, per la via del rock and roll, mentre il mondo è tutto beat. E se ci proverete, la vita così avrà un valore per voi. Passano, passano le mode, cambiano, cambiano, canzoni e ritmi, nascono, nascono, cantanti nuovi. Come farò a stare a galla non so. Avrà un valore per voi. Passano, passano le mode, i tempi cambiano, cambiano, canzoni e ritmi nascono, nascono, cantanti nuovi. Come farò a stare a galla non so.